Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.09.30 secondi, buonasera a tutti da Deborah Rosciani che questa sera vi tiene compagnia per Focus Economia per raccontarvi la giornata economico-finanziaria. 349-238-6666, vi ricordo fin da subito il numero per interagire con noi, per mandarci i vostri messaggi e le vostre considerazioni sui temi della giornata che sono molti anche questa sera e sono sempre piuttosto interessanti. Chiaramente parleremo del quadro di borsa, oggi è una giornata molto positiva per i listini europei, soprattutto per Piazza Affari, che sta di gran lunga superando in guadagno quello che mettono a segno appunto le altre piazze del vecchio continente, peraltro con l'eccezione di Londra che da stamattina è negativa e sta mantenendo questo tenore negativo per la City -0,2%, mentre Francoforte e Parigi guadagnano mezzo punto, Milano +1,27%. Monitoriamo la borsa oggi con grande attenzione. Wall Street in questo momento non si muove più di tanto. Perché? Perché si riunisce il Federal Open Market Committee, il braccio operativo della Banca Centrale Americana, e fin qui niente di nuovo, c'è l'appuntamento mensile per decidere sui tassi di interesse, ma al contrario di tutto quello che, succede nelle altre occasioni, la decisione sui tassi arriva qualche ora prima del previsto, alle 18.30, ve la daremo in diretta, ma soprattutto per la prima volta nella storia ci sarà una conferenza stampa del numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, e quindi si attendono delle indicazioni chiare sul futuro della politica monetaria americana. Si tenterà di capire se è ora di cominciare ad attivare iniziative di exit strategy dalle iniziative intraprese fino a questo momento, e quindi ci faremo raccontare tutto tra un po' dal corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Mario Platero, che peraltro è l'autore con altri colleghi del Sole 24 Ore di questa inchiesta che andrà avanti per diverse puntate sul ritorno dei titoli a rischio a Wall Street, peraltro un ritorno alimentato anche dalla politica monetaria estremamente espansiva della Banca Centrale Americana. Poi parleremo dell'arrivo del nuovo decreto ministeriale che stabilisce le nuove tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, perché c'è una protesta molto dura, molto forte, di un gruppo di operatori stranieri che addirittura ha deciso, con un'iniziativa legale molto importante, di mettere in mora lo Stato italiano, che violerebbe, secondo le loro interpretazioni, il trattato sulla carta dell'energia, perché le condizioni del cosiddetto quarto conto energia disattendono completamente quanto indica appunto questo trattato. Poi ci faremo spiegare bene da un legale. Sempre a proposito di impianti fotovoltaici, energie rinnovabili, avremo un'intervista anche all'amministratore delegato di Enel Green Power, perché oggi la società in assemblea dà il via libera ai conti e cercheremo di capire anche un po' qual è lo stato di salute di questa azienda, che appare piuttosto buono. Peraltro ci faremo anche dire che cosa ne pensa Starace, che è l'amministratore delegato, su tutta la polemica sul nucleare che in questi giorni sta alimentando il dibattito politico italiano. Poi parleremo sulla fine della trasmissione anche di Previdenza, perché la settimana prossima a Milano si svolgerà la prima giornata nazionale della Previdenza. Sentiremo da chi è organizzata, sentiremo a quale platea è rivolta questa massiccia campagna di informazione che non riguarda solamente la previdenza complementare, cioè la pensione d'appoggio del nostro futuro, ma anche tutto ciò che attiene alla previdenza pubblica, perché a quanto pare ancora tra la educazione finanziaria su questo argomento ci sono molte zone d'ombra tra la popolazione italiana. Allora, vi ho ricordato il numero per intervenire e ve lo ricordo ancora, ve lo ribadisco, se a qualcuno fosse sfuggito il 349-238-6666. Adesso andiamo alle altre notizie in breve della giornata. Sapete, le nostre notizie in breve iniziano come sempre con un quadro sui prezzi, sulle quotazioni delle materie prime. Siamo sempre su livelli molto alti, ma siamo un po' più tranquilli, almeno da qualche ora a questa parte, sia sul fronte dell'oro che sul fronte del petrolio. L'oro in Asia quotava stamattina $1,510 al barile, è più tranquillo per modo di dire, perché comunque siamo sempre sui livelli record del 25 aprile. Per quello che riguarda invece il petrolio, il greggio oggi aveva un certo calo a New York, a $111 al barile, peraltro un calo che è stato determinato anche dopo la diffusione dei dati sull'andamento delle scorte diffusi oggi dal Dipartimento dell'Energia. E a proposito di petrolio, abbiamo i risultati, siccome siamo anche in pieno periodo di trimestrali. Oggi abbiamo i risultati di due colossi del petrolio, British Petroleum e la nostra Eni. Andiamo con BP, la seconda compagnia petrolifera europea, British Petroleum per l'appunto. Ha chiuso il primo trimestre con utili in calo a 5 miliardi e 370 milioni di dollari contro i 5,6 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Ad incidere evidentemente negativamente sul risultato le vendite di asset per oltre 24 miliardi di dollari, vendite che si sono rese necessarie per ripagare il disastro della marea nera del Golfo del Messico dell'anno scorso. Per quello che riguarda invece Eni, il cane a sei zampe, il gruppo ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con un utile netto di 2,22 miliardi di euro, in crescita del 21,6% rispetto allo scorso anno, mentre l'utile netto, il primo era quello che viene definito adjusted, il secondo, l'utile netto appunto, è pari a 2 miliardi e 550 milioni di euro, in crescita del 14,6%. Lo ha reso noto il gruppo in una nota emessa al termine del consiglio di amministrazione. Il gruppo ha anche fatto sapere quali sono le sue stime relativamente all'andamento del prezzo del petrolio. Eni guarda in particolar modo al greggio di riferimento europeo. Il Brent viene stimato a 101 dollari e la produzione di idrocarburi appunto del gruppo viene stimata in calo. Ci sono anche dei flash su alcune dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato del gruppo, Scaroni, che dice sul trimestre pesa la situazione libica, ma i risultati rimangono comunque eccellenti, le prospettive di redditività e crescita sono positive, malgrado appunto queste incertezze. Andiamo alle altre notizie di economia internazionale. Standard & Poor's ha stimato che i costi della ricostruzione delle aree del nord-est del Giappone, pesantemente colpite dalle sisma e dallo tsunami dell'11 marzo, possano attestarsi in media a 30.000 miliardi di yen, circa 250 miliardi di euro, meno dei 310 miliardi di euro che sono l'ultima stima del governo di Tokyo. Crediamo, ha scritto l'agenzia di valutazione nella nota in cui peraltro ha anche rivisto l'outlook del Giappone da stabile a negativo, che i costi di ricostruzione possano essere ricompresi nella forchetta fra i 20.000 e 50.000 miliardi di yen, per la verità una forchetta piuttosto ampia, cioè tra 167 e 417 miliardi di euro. La Gran Bretagna ha registrato invece nel primo trimestre una crescita economica dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1,8% rispetto allo stesso periodo del 2010. L'andamento del PIL britannico rappresenta una ripresa dopo la crescita negativa che si era invece registrata nell'ultimo trimestre dello scorso anno, ma è comunque inferiore alle attese degli analisti. E non è che oggi non abbiamo notizie che arrivino dalla Grecia, perché comunque i rendimenti pagati dai titoli di Stato ellenici sono ancora in forte rialzo e stanno volando a nuovi massimi storici, ormai c'è un trend inarrestabile, il mercato sta continuando a scontare i timori di una ristrutturazione del debito greco. Il rendimento sul titolo decennale, definiamolo un po' il BTP della Grecia, ha oggi avuto un nuovo rialzo di 29 punti base rispetto a ieri, toccando il nuovo record dall'introduzione dell'euro a quota 15,8%. Ci sono nuovi massimi anche per il titolo a 5 anni, il quinquennale, e per il titolo biennale, questo veramente su livelli incredibili, rispettivamente al 22,47% e al 25,17%. I contratti credit default swap, queste speciali assicurazioni appunto che si sottoscrivono fra investitori istituzionali per proprio stimare il rischio di una bancarotta degli stati, e quindi sono contratti che misurano il rischio di insolvenza sul debito, in questo caso di Atene, sono saliti oggi a 1.375 punti base, 37 punti in più rispetto a ieri, e sono balzati anche a nuovi massimi almeno dalla creazione dell'euro, i premi di rendimento rispetto al Bund decennale tedesco pagati da Grecia, 1.269 punti base, Irlanda 725 punti base, Portogallo 640. E il numero uno della Banca Centrale di Cipro, Orfanides, spero, o Orfanides, adesso non sappiamo bene qua l'accento dove vada, ha sostenuto comunque oggi che una ristrutturazione del debito della Grecia sarebbe uno sviluppo negativo sia per l'economia greca che per l'economia dell'area euro. Allora, senza l'approvazione del governo tedesco non ci sarà alcuna decisione rispetto al successore di Jean-Claude Trichet alla presidenza della Banca Centrale Europea. Lo ha detto oggi il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Due paesi importanti come la Francia e l'Italia appoggiano il candidato Draghi, ma senza l'approvazione tedesca, questi se non si mettono di traverso sempre a qualsiasi cosa non sono contenti, non ci sarà un'assegnazione del posto di presidente della BCE. Mentre il numero uno, la portavoce del Ministero degli Esteri del Portogallo, qua speriamo di essere un po' più precisa sul nome, Paola Mascarenhas, ha detto che il governo portoghese sostiene Mario Draghi nella corsa alla presidenza della Banca Centrale Europea. E a proposito di banche dell'area euro, hanno dato una stretta ai rubinetti del credito nel primo trimestre e si preparano a fare lo stesso nei tre mesi successivi. Lo dice la Bank Lending Survey trimestrale della Banca Centrale Europea, quindi la ricerca sui prestiti delle banche, proprio questo monitoraggio trimestrale che la BCE conduce. E secondo questa ricerca le banche dell'area euro hanno in generale reso più difficili gli standard creditizi nel primo trimestre del 2011, anche se moderatamente sui prestiti alle imprese non finanziarie e alle famiglie. Un'ultima notizia la diamo invece relativamente ai monitoraggi che vengono condotti dalla Banca d'Italia sui crediti alle imprese nel nostro paese e alle famiglie. Le banche italiane hanno irrigidito lievemente, ulteriormente direi io, i crediti per i prestiti a famiglie e imprese nel primo trimestre di quest'anno, e per i prossimi tre mesi l'attesa è di una stabilità per i finanziamenti alle aziende e una lieve stretta alle famiglie. Questo è quanto emerge dall'indagine della Banca d'Italia sul credito bancario nell'ambito di quella condotta appunto dall'Eurosistema. Direi che con le notizie in breve ci possiamo fermare qui. Adesso abbiamo il nostro primo approfondimento di oggi. Allora, come preannunciato, oggi le borse da questa mattina sono state orientate a guardare un po' di fattori, intanto sicuramente i risultati societari, le trimestrali, ce ne sono state diverse positive, quella di Ericsson, quella di Barclays, e però gli operatori hanno detto anche un'altra cosa, e questo lo si è visto soprattutto sul fronte del mercato valutario. Oggi i mercati hanno guardato soprattutto, si sono messi in attesa di questo appuntamento molto importante di questa giornata. Cosa succede negli Stati Uniti? Che si riunisce il Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, ed è proprio quel comitato che decide se movimentare o meno i tassi di interesse. Che cosa succede oggi? Succede che intanto la decisione sui tassi di interesse la conosceremo in maniera inedita, perché almeno da quando mi ricordo io che conduco queste trasmissioni non è mai successo che la decisione sia stata comunicata alle 18:30 ora italiana, e con ogni probabilità il costo del denaro rimarrà fermo a questo minimo storico, in questo corridoio che oscilla fra lo 0 e lo 0,25%. Ma soprattutto, dopo l'annuncio e il comunicato sui tassi, il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, terrà una conferenza stampa. Anche qui niente di nuovo, ma è per la prima volta nella storia della Banca Centrale Americana, credo, che ci sia una conferenza stampa che segue immediatamente la riunione e la decisione sui tassi. Una scelta che arriva dopo mesi di profonde divisioni all'interno del direttivo della Banca Centrale Americana sulle scelte da attuare. Con lo strumento delle conferenze stampa, leggevo oggi qualche analisi da parte degli operatori, si intende sterilizzare le divisioni fra falchi e colombi all'interno del board della Federal Reserve, dando quindi importanza alla voce del presidente Bernanke. Ma soprattutto il mercato guarda questo appuntamento con la stampa con una certa apprensione, perché già ci si chiede insomma se Bernanke ha intenzione di dare qualche annuncio importante relativamente alla messa in atto della cosiddetta exit strategy, cioè l'uscita da tutte le iniziative che sono state intraprese negli ultimi tre anni appunto proprio per sostenere l'economia, questa politica monetaria completamente espansiva. Allora, io ho detto molto, ma sicuramente qualche dettaglio in più ce lo dà il corrispondente da New York del Sole 24 Ore, Mario Platero. Mario, buonasera. Buongiorno Deborah. Sì, qua siamo un po' più avanti, dici tutti. Siamo in effetti a una svolta sul piano della comunicazione della Federal Reserve, una sorta di glasnost, si dice, quindi di totale liberalizzazione. Finora Bernanke o chi per lui, Greenspan prima di lui, Volcker prima di Greenspan, parlavano soprattutto e rispondevano a domande nel contesto delle audizioni parlamentari. Lo stesso Bernanke ha dato in effetti un paio di conferenze stampa agli incontri al National Press Building, ma in tutti gli anni che è rimasto lì sono state le uniche due occasioni, ma non c'erano domande dirette, le domande erano scritte su un foglietto, poi lui le riceveva, ne sceglieva qualcuna e rispondeva. In questo caso invece si alza la mano e si parla direttamente col governatore. Ci sarei anche tu, Mario, scusaci. Ci sono stati degli incontri off the record, ecco, che il governatore ogni tanto fa con dei giornalisti, ma è la prima volta, come dicevi te, per sterilizzare le eventuali differenze fra falchi e colombe. Poi di falchi in realtà ce n'è soltanto uno, diciamo uno e mezzo dentro il Consiglio, ma credo soprattutto per sterilizzare le interpretazioni da parte dei mercati, perché il comunicato che, come dicevi tu giustamente, oggi avremo per la prima volta alle 12:30 ora locale, alle 6:30 ora italiana, il comunicato del Federal Open Market Committee, che è il comitato monetario, avrà un linguaggio come sempre molto asciutto e potenzialmente ambiguo. Allora, l'idea è che il governatore possa chiarire eventuali ambiguità. Non credo che faccia notizia dando degli annunci diversi rispetto a quelli del comunicato, e c'è l'aspetto molto interessante su come questa cosa è stata preparata, proprio perché, come tu ben sai, qualunque dichiarazione del governatore della Federal Reserve può muovere il mercato. E allora sono tutti attesissimi e attentissimi, scusate, non attesissimi, ma attentissimi e in grandissima attesa di vedere se il governatore dirà qualche cosa di diverso nel suo comunicato iniziale rispetto al comunicato del Federal Open Market Committee. Se questo succede, vedremo movimenti di mercato, quindi è una situazione piuttosto tesa. Ecco, però credo che ci sia già una qualche idea su quella che sarà l'intenzione della Federal Reserve, Mario, relativamente a questo piano di acquisti da 600 miliardi di dollari di titoli di Stato, che è l'ammontare dell'ultima manovra della quantitative easing, che è pure difficilissimo da pronunciare, sì, appunto da parte della Federal Reserve. In sostanza ci si può già immaginare qualche indicazione preventiva sull'exit strategy della Federal Reserve? Allora, guarda, Deborah, il mercato ha già scontato il fatto che la Federal Reserve chiuderà con giugno il QE2 e non ci sarà un QE3, quindi potrebbero esserci dei rimbalzi improvvisi, però posso dirti che la decisione nel contesto della Federal Reserve di interrompere la QE2 a giugno, quando scade, è stata presa, quindi questa manovra da 600 miliardi di dollari si chiuderà. Ci sarà la necessità di vedere come per i mesi successivi si potrà rendere più morbida questa uscita improvvisa di questa liquidità che continuava a arrivare sul mercato obbligazionario da parte della Fed. Loro hanno alcuni strumenti tecnici con cui ovviare a questa cosa e quindi per fare un passaggio morbido, però il QE2 è interrotto. Ecco, se si decide di non rinnovarlo, e abbiamo ancora tempo perché c'è ancora un'altra riunione prima della fine di maggio del Federal Open Market Committee, prima della fine di giugno, il Federal Open Market Committee si riunisce ogni 6 settimane, quindi l'annuncio appropriato potrebbe essere formale quello che si fa a giugno. Possibile che lo facciano anche oggi, non lo sappiamo. Da un punto di vista tecnico, quella decisione mi risulta essere stata già presa e non annunciata, e i mercati sanno già che questa è più o meno la situazione. Un'altra cosa importante invece riguarda l'andamento dei tassi di interesse. Come dicevi, i tassi resteranno invariati, oggi nel comunicato non si dirà nulla e si continuerà a ripetere che la Fed continuerà ad osservare i movimenti di mercato dal punto di vista dell'inflazione e così via per aggiustare questa politica. Però di nuovo nelle sale private della Fed la decisione di stringere la politica monetaria e quindi di chiudere con questo tasso 0,025 è già stata presa e questo avverrà a partire da gennaio, tra dicembre e gennaio, quindi non ci saranno altri 6 mesi di politica accomodante con i tassi molto bassi, e poi comincerà una stretta a seguito poi di quella. E quindi, insomma, il mercato potrà cominciare, come sempre fa d'altronde, a digerire le manovre future con largo anticipo. Mario, che domanda faresti tu a Ben Bernanke? Bella domanda, Deborah. Ma gli chiederei innanzitutto qual è la sua percezione su un ritorno del rischio sul mercato, perché questa, devo dire, è la cosa che preoccupa un po' tutti. Ne abbiamo parlato molto sul nostro giornale, sì. Ne abbiamo parlato anche in radio, ma da una parte vediamo i mercati che continuano a salire, vediamo la borsa che ha fatto ieri, per esempio, quando ha chiuso il livello più alto dal 2008, e quindi c'è uno straordinario ottimismo. Questo ottimismo non lo troviamo nell'economia. C'è un disavanzo straordinario dal punto di vista macroeconomico, un disavanzo pubblico su cui i politici non si mettono d'accordo, l'occupazione non è tornata e dunque, mentre vediamo una borsa che è passata da 9.000 a 12.000 nel giro di 6-8 mesi, non vediamo ancora dei ritorni nell'economia reale. E allora la domanda è: siamo di nuovo in bolla? E non è possibile che questi fondi che sono stati dati dalla Fed a bassissimo costo non sono stati poi trasferiti dalle banche sull'economia reale, ma sono stati usati soltanto per motivi speculativi? Questa è la sensazione, di questo noi abbiamo scritto, e dunque ci si domanda se non ci sia il rischio di una nuova bolla in corso. Dunque una domanda precisa potrebbe essere: non è preoccupato dal fatto che questi tassi di interesse così bassi siano stati poi utilizzati dalle banche per ragioni speculative e non per far crescere l'economia reale? Mario, io ti ringrazio, anche perché ho la sensazione abbastanza netta che continueremo a risentirti anche nelle prossime ore, quindi seguiremo sicuramente questa conferenza stampa di Ben Bernanke, soprattutto alle 18.30 ci risentiremo appunto per dare in diretta la decisione del Federal Open Market Committee. Buona serata e buon lavoro. Ottimo, Mario. Ottimo, grazie. A presto. E sì, noi intanto ci fermiamo. Naturalmente io saluto anche l'ascoltatore da Genova che mi dice che ancora una volta ho dato la quotazione dell'oro al barile. Barbara Bianchi, la mia assistente, mi dice che non è vero. Adesso recupereremo qualora fosse vero, e ho ragione di credere che abbia fatto anche questa volta questo lapsus. Me ne scuso, ma naturalmente è chiaro che l'oro viene valutato all'oncia. Lino, che ci vuole fare? Sono un po' così reduce da qualche giorno di stop dal lavoro. Ci fermiamo, adesso abbiamo un altro stop e poi ritorniamo per darvi il quadro della giornata di borsa, che si avvia ad una chiusura piuttosto positiva, soprattutto per Piazza Affari, che sta segnando un più 1,39%. Euro su dollaro, il dollaro continua a scendere sull'euro, le quotazioni sono adesso 1,4654, anche se stamattina l'euro è ripiombato sopra 1,47, sempre appunto in attesa della Federal Reserve. A tra poco. Sono 17.37, eccoci ritornati a Focus Economia, ancora tanti ascoltatori che molto affettuosamente mi continuano a prendere in giro perché continuo a ribadire che il prezzo dell'oro sia al barile, $1,510 al barile, ho ridetto oggi e l'ho rifatto per l'ennesima puntata, abbiate pazienza, cosa volete? La stanchezza alla fine della giornata si comincia a far sentire anche su di me, ma in ogni caso le quotazioni sul mercato asiatico stamattina erano intorno ai $1,510 l'oncia, siamo ancora su livelli assolutamente record. Il petrolio invece oggi era un po' più tranquillo. Detto questo, invece, oggi la borsa come va? In attesa della Banca Centrale Americana. Wall Street è ferma sulla parità, il Dow Jones è più 0,09%, il Nasdaq è leggermente negativo, anche lo Standard & Poor's 500 meno 0,12%. Ricordiamo che però ieri gli indici americani si sono fiondati su livelli che non vedevano da 3 anni a questa parte, per cui oggi, anche in attesa della Fed, c'è questa seduta di consolidamento dei guadagni di ieri. Meglio l'Europa, con l'unica eccezione di Londra che perde lo 0,16%, Parigi più 0,55%, Francoforte più 0,66%, in un mercato che naturalmente guarda alle trimestrali. Vedo oggi volare, e ne parleremo tra poco con la collega di Radio Corriere delle Sole 24 ore, grazie soprattutto al settore auto che oggi sta trainando tutta l'Europa. Milano, la miglior piazza d'Europa, si sta avvicinando a chiudere la sua seduta. Non vi dico con che rialzo, perché naturalmente mi sono dimenticata anche di mandare il nostro stacchettino di borsa. Milano si sta avviando a chiudere la sua giornata con un rialzo dell'1,39%. Buonasera ad Eleonora Micheli. Buonasera a tutti. Eleonora, allora, a parte le attese per questa riunione storica della Banca Centrale Americana, appuntamento fisso mensile sui tassi di interesse, ma poi conferenza stampa storica del presidente Ben Bernanke, oggi l'Europa, oltre a questa attesa, in realtà così ha voluto un po' concentrarsi sulle trimestrali. Sono arrivate tante, sono apparse tutte piuttosto buone, soprattutto quella di Volkswagen. Esatto, infatti oggi appunto è un po' il settore auto, come hai già notato tu, a diciamo essere sotto i riflettori. C'è Volkswagen, ma soprattutto c'è anche Renault, che ha pubblicato conti trimestrali superiori alle attese, e i titoli a Parigi hanno corso all'impazzata, hanno chiuso poi con un progresso del 3,7% e hanno comunque incoraggiato gli acquisti un po' su tutte le maggiori, le principali case auto. Fatta eccezione, si può dire, della Fiat. Fiat SPA infatti è rimasta al palo per tutta la seduta e poi ha chiuso con un calo di mezzo punto percentuale, attestandosi a 7 euro. D'altra parte le azioni di Fiat avevano corso molto nelle ultime sedute, soprattutto dopo l'annuncio che entro giugno la casa torinese salirà al 46% nel capitale di Chrysler. E per quello che riguarda invece, tra l'altro, la citata Volkswagen, ricordo anche, visto che abbiamo dato la quotazione di Renault, per Volkswagen la chiusura è con un più 4,85% di guadagno, il miglior titolo sul DAX 100, quindi sul listino di Francoforte. Mentre a Londra, così andavo a curiosare anche sui motivi per cui oggi la City fosse stata negativa per tutta la seduta, vedo che ci sono titoli appartenenti a settori diversi a trascinarla giù, tra cui anche Barclays, che ha rassegnato i suoi dati per il gruppo bancario, oggi ribasso del 4,62%. Ma tornerei a Piazza Affari a monitorare i migliori e i peggiori titoli. Cominciamo un po' dal peggiore, Eleonora, perché qua i conti di STM proprio al mercato non sono piaciuti, meno 4% per il titolo. Sì, esatto, meno 4%, e nonostante che l'utile dei primi tre mesi della società sia più che triplicato. D'altra parte è vero sì che è salito tantissimo, ma meno di quanto si attendessero gli esperti. Conseguentemente appunto hanno fatto registrare questo calo alle azioni, che comunque nelle ultime sedute avevano registrato un buon progresso, quindi si tratta anche un po' di prese di beneficio. E infatti qualche volta sulla notizia gli operatori appunto ne approfittano. Pirelli, io visto che sto dalla parte dei peggiori titoli continuo a dare questi, Pirelli meno 1,57%, sì. Abbiamo anche Autogrill con un meno 0,6, Fiat ne abbiamo parlato, meno 0,49. Su Pirelli ci sono delle notizie? Pirelli ieri aveva messo a punto un guadagno del 4%, Beh, certo. Oggi sono scattate appunto le prese di beneficio. Benissimo, benissimo, malissimo, benissimo per gli operatori che riescono ad incassare quanto guadagnato ieri o almeno una parte. Andiamo ai migliori. Allora, vabbè, queste banche popolari continuano ancora ad andare veramente sull'otto volante. Oggi ritornano tutte le banche complessivamente, mi sembra, tutte quante su, più 3,64% per il Banco Popolare, Unicredit più 2,73%, Intesa più 2,68%, UbiBanca più 2,38%, poi abbiamo la Popolare di Milano più 2%, tutte banche che a vario titolo qualche ricapitalizzazione dovranno farla, con l'unica eccezione di Unicredit. Ma qua, come dire, le banche oscillano anche in relazione alle notizie che arrivano dalla Grecia. Nel momento in cui oggi è un po' meno notizia del giorno precedente la Grecia, le banche sono più tranquille. Buzzi Unicem ha oggi qualche cosa da raccontare, titolo in rialzo di quasi 3 punti, Eleonora. Sì, esatto, oggi si sono risvegliate le Buzzi Unicem, c'è molta attesa per i conti del trimestre che verranno annunciati nei prossimi giorni, e comunque c'è una scommessa da parte delle principali case di affari che i conti siano in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, rispetto cioè ai primi 3 mesi del 2010, con volumi in crescita in tutti i principali mercati di riferimento. Quindi questo ha dato là una serie di ordini in acquisto. Comunque occorrerà attendere ancora qualche giorno, ovvero fino al 13 maggio, prima di conoscere la verità sul gruppo del cemento. Questa spinta sui finanziari, io ho elencato le performance della giornata, vedo anche che Mediolanum ha fatto più 1,95%, Monte dei Paschi più 1,72%, bene anche l'assicurativo, Generali più 1,66%. C'è qualche ragione su questo andamento, Eleonora? Ma anche ad esempio a Parigi sono andate molto bene le banche, c'è, come hai detto tu, un po' minori preoccupazioni magari sul debito sovrano di alcuni paesi, poi c'è grande attesa per la mossa anche della Fed, e in genere quando appunto gli occhi sono puntati sulle banche centrali, i titoli del settore bancario sicuramente si muovono, poi alle volte all'insù, alle volte all'ingiù. Oggi appunto stanno mettendo a segno rialzi consistenti, il Banco Popolare è quello che ha tirato la volata sin dalle prime battute, più 3,6% nel corso della seduta, è arrivata a guadagnare oltre il 4%. E questo peraltro spiega anche il motivo per cui Milano è la miglior piazza d'Europa, avendo una composizione molto importante appunto sui titoli finanziari. Quando vanno tutti bene, chiaramente portano su tutto l'intero listino. Sulla galassia Fiat abbiamo detto un po', ma non tutto, perché per i titoli industrial oggi abbiamo avuto un rialzo del 2,32%. Che cosa fa Case New Holland? Sì, esatto, oggi diciamo che si sono riaccesi i riflettori su Fiat Industrial, visto che la controllata americana CNH ha fatto sapere che aprirà un sito industriale in Argentina. Al di là dell'investimento in sé per sé, è molto importante la mossa decisa da parte dell'azienda, visto che è un'espansione, un rafforzamento nel contesto dell'America Latina, un contesto che è previsto in forte crescita negli anni venturi. Tra l'altro va detto che i titoli comunque nelle ultime sedute avevano perso terreno, sono scivolati sotto la soglia dei 10 euro, risentendo un po' della delusione per i conti trimestrali resi noti la scorsa settimana. Oggi di conseguenza, anche sull'onda di questa notizia, è avvenuto il rimbalzo. Eleonora, dobbiamo sentire per un attimo i suggerimenti per chi è in viaggio. Ci aspetti, perché dobbiamo raccontare anche dei conti di Eni e di un altro paio di titoli? Certo. Va bene, tra poco. E con Focus Economia stiamo ancora monitorando l'andamento della giornata di borsa. Ci stiamo come sempre a quest'ora concentrando soprattutto sulla seduta di Piazza Affari. La nostra Eleonora Micheli, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Dicevamo dei risultati di Eni. Eleonora, il cane ha 6 zampe, gli utili sono cresciuti, il prezzo del petrolio ha sicuramente aiutato, e buona giornata anche per il titolo. Sì, oggi Eni soprattutto ha pubblicato i conti del primo trimestre, saliti del 14,6%, è salito del 14,6% l'utile netto dei primi 3 mesi a 2,55 miliardi, ma soprattutto sono state anche le parole del numero uno Paolo Scaroni a favorire gli ordini in acquisto sulle azioni. Il manager ha infatti detto che nonostante le incertezze create dalla situazione in Libia, le prospettive di redditività e di crescita di Eni rimangono positive, e quindi questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a numerosi operatori e investitori. Abbiamo la notizione anche di Telecom, che ha toccato l'euro per poi chiudere leggermente al di sotto, Leonora. Sì, Telecom continua a beneficiare della notizia di ieri che la compagnia telefonica insieme a Fastweb si è aggiudicata la gara Consip appunto per l'attivazione dei servizi di telefonia fissa, quindi è molto importante, anche se un po' era nell'aria. Come hai detto tu, poi ha riconquistato la soglia di un euro, quindi anche si sono innescati una serie di acquisti determinati da motivi strettamente tecnici. Allora Eleonora, dobbiamo salutarci, ma non possiamo non controllare cosa è successo oggi su Parmalat, che chiude con un leggero ribasso dello 0,39% sì, a 2,56 euro. Siamo quindi a pochi centesimi dal prezzo dell'OPA lanciata dai francesi di Lactalis. Ti leggo un messaggio che è arrivato di un ascoltatore, se lo ripesco al volo, e ci chiede che cosa succederebbe alle azioni se la cordata italiana rilanciasse l'OPA di Lactalis. Ma insomma, anche voi avete fatto un po' di conti in radio Corrieri, è difficile che si riescano a mettere insieme le risorse finanziarie per controribattere all'offerta, mi certo, pare. Ci vorrebbero più dei soldi attuali, ovvero più di 4,7 miliardi, circa 5 miliardi di euro, visto che la cordata italiana per adesso non si è ancora nemmeno definita, pare difficile, o almeno questo è il verdetto del mercato, che ha fatto scivolare le azioni, sono prossime al prezzo offerto dalla francese Lactalis di 2,6 euro, ma anche oggi hanno chiuso a 2,55 euro, ieri avevano chiuso a 2,56 euro, quindi sono andate addirittura giù, a dimostrazione che il mercato non sta assolutamente scommettendo su alcun tipo di contromossa. Eleonora, grazie, questa sera ti abbiamo veramente spremuto fino in fondo, buona serata. Buona serata. Eleonora Micheli, collega di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo al nostro prossimo approfondimento. Un approfondimento che riguarda ancora una società quotata in borsa. Oggi si sta tenendo peraltro, per la verità, l'assemblea ordinaria e straordinaria di Enel Green Power, che è la società del gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, un'assemblea chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, la destinazione degli utili. Il bilancio del gruppo si è chiuso con ricavi totali a 2 miliardi e 300 milioni di euro, in crescita di quasi il 20% rispetto al 2009. L'indebitamento finanziario netto è a 3,1 miliardi di euro, abbattuto di oltre il 42% sul 2009. Prima dell'inizio dell'assemblea abbiamo raggiunto Francesco Starace, l'amministratore delegato della società, al quale abbiamo chiesto innanzitutto un commento ai dati 2010. Il bilancio di esercizio 2010 ci vede raggiungere tutti i traguardi che ci eravamo posti. Noi avevamo promesso ai nostri futuri azionisti al momento della piazzamento in borsa di Enel Green Power di raggiungere 1 miliardo e 300 milioni di EBITDA, lo abbiamo puntualmente raggiunto, abbiamo raggiunto i 6.100 megawatt di potenza installata e abbiamo anche una produzione assolutamente in linea con le previsioni, quindi è stato un anno molto molto importante, non solo perché abbiamo raggiunto questi traguardi che ci mettono a questo punto in una posizione di leadership a livello mondiale sul mondo delle rinnovabili, ma anche perché siamo riusciti ad andare sul mercato e a piazzare quello che a tutt'oggi è ancora più grande, la più grande offerta pubblica in Europa negli ultimi 3 anni. Ci conferma la remunerazione decisa per gli azionisti, 2,72 euro per azione? L'assemblea è in corso e quindi noi vedremo a fine dell'assemblea, penso che se l'assemblea accetterà questa proposta, questa sarà la remunerazione per gli azionisti, sì. Dottor Starace, in questi giorni c'è grande attenzione sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista dell'opinione pubblica relativamente alle decisioni sul nucleare. Proprio ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi in conferenza stampa dopo il vertice italo-francese ha spiegato che la decisione di una moratoria in Italia sul nucleare è stata presa anche per permettere all'opinione pubblica di tranquillizzarsi. Questo andirivieni di idee sul nucleare naturalmente ha spinto, lo abbiamo visto soprattutto in borsa, tutto ciò che attiene al mondo del rinnovabile. Anche voi evidentemente è stato un po' cavalcando, mi passi il termine, questa occasione che si è determinata per lo sviluppo di questo settore anche per la tragedia giapponese. Qual è dal suo punto di vista, insomma, un po' un commento che si può fare rispetto a tutto quello che sta emergendo anche rispetto all'opinione pubblica nella discussione del momento? Guardi, trovo che il collegamento che viene fatto tra la crescita delle rinnovabili e il nucleare trova pochissima giustificazione nei fatti e nella logica degli investimenti. Il nucleare è un investimento che va molto in là nel futuro, quindi si decide ora per un impianto che andrà in funzione tra circa 10 anni e si compone di grandi investimenti concentrati in pochi grandi impianti. Completamente diverso è l'asse temporale delle rinnovabili. Le rinnovabili si sviluppano adesso in maniera molto puntuale, molto distribuita e si esprimono in tantissime decisioni relativamente piccole. Quindi di fatto il legame tra le due cose lo trovo abbastanza poco logico. Di fatto poi i mercati spesso si muovono con logiche non razionali, questo credo sia uno dei casi. In questo caso va bene alle rinnovabili, quindi non ci si lamenta più di tanto, ma ripeto, è puramente una faccenda emotiva, non ci trovo una logica dietro. Dottor Starace, nel marzo scorso avevate presentato le linee guida del nuovo piano industriale annunciando investimenti per circa 6 miliardi e mezzo di euro complessivi su scala internazionale. Solamente il 29% di queste risorse, avevate precisato, sarà diretto all'Italia, per il resto appunto grandi investimenti nell'America del Sud e nel resto d'Europa. Ci può fare il punto della situazione? Rispetto al piano industriale che abbiamo presentato agli azionisti futuri, quindi durante l'IPO, abbiamo fatto una rivisitazione di tutto quello che il nostro portafoglio di progetti aveva e abbiamo trovato la possibilità di ampliare il piano di investimenti di circa 1 miliardo e 200 milioni, quindi l'abbiamo fatto salire da 5,2 a 6,4 miliardi nell'arco di 5 anni e abbiamo anche trovato il modo di diversificare ulteriormente la nostra base tecnologica. Il vecchio piano prevedeva un investimento massicciamente dedicato all'eolico, in questo caso il 1 miliardo e 200 milioni in più che siamo riusciti di buoni progetti che siamo riusciti a trovare si esprime in più solare, più solare fotovoltaico, più geotermia e più idroelettrico, a parità di sforzo sull'eolico. Per quanto riguarda la geografia, abbiamo visto che ci sono parti del mondo, e in particolare mi riferisco all'America Latina, ma anche ad altre parti d'Europa, dove le rinnovabili partono adesso, quindi non hanno il pregresso di circa 10 anni che hanno il resto d'Europa, e c'è uno spazio di crescita molto importante. Sono tutte parti del mondo in cui l'effetto demografico, quindi la crescita delle popolazioni, l'effetto economico, la crescita economica sono molto, molto forti e generano una domanda di energia a breve termine molto, molto intensa. Le rinnovabili sono il modo più immediato di rispondere a questa domanda di energia in queste parti del mondo che sono poi dotate di grandi risorse. Quindi una grande opportunità per un'azienda come la nostra che trova nella sua generazione di cassa i mezzi per crescere. Per quello che riguarda invece questo 29% delle risorse dirette all'Italia, ci può dare un po' un punto della situazione relativamente alla distribuzione? In Italia abbiamo una crescita che punta molto su più di una tecnologia, quindi abbiamo un flusso di investimenti costante sull'eolico, una strategia di crescita integrata nel fotovoltaico. In luglio inaugureremo la prima produzione negli stabilimenti produttivi di pannelli fotovoltaici che abbiamo iniziato a costruire, e poi abbiamo una società che si occupa di vendere pannelli alle famiglie, alle piccole aziende, quindi un atteggiamento molto attento alla parte dettaglio di questa fonte energetica. E poi continuiamo il nostro classico investimento nella geotermia, che riteniamo in Italia possa ancora esprimere molto e sulla quale continuiamo a puntare anche come sviluppo tecnologico. Il parco idroelettrico che noi abbiamo è uno dei più antichi e più produttivi al mondo, su questo continuiamo a fare investimenti, ahimè non per aumentare i megawatt perché è impossibile, ma per aumentare la producibilità, quindi aumentare a parità di potenza installata l'energia che riusciamo a produrre. Il quadro regolatorio del settore, dottor Staracci, risulta ancora un limite per l'ulteriore sviluppo delle rinnovabili in Italia? Diciamo che lo è stato non tanto il quadro regolatorio, ma l'incertezza che ha caratterizzato la transizione da un quadro regolatorio ad un altro. Ora questa transizione per quanto riguarda tutte le fonti, l'eccezione fotovoltaico, è terminata e c'è chiarezza e quindi si può ricominciare a lavorare con serenità. Sul fotovoltaico ci attendiamo a giorni lo stesso e quindi io sono abbastanza fiducioso che da maggio in avanti il quadro regolatorio sia più stabile e quindi ci si possa poi dedicare a fare le cose e non solo a parlarne. Per esempio, qual è la stabilità di cui ha bisogno il settore delle rinnovabili italiane? Ha necessità di sapere che c'è un orizzonte incentivante che va a decrescere man mano che la tecnologia diventa più efficiente e che questo calo degli incentivi viene accompagnarsi in un arco di anni abbastanza lungo, in modo che gli investimenti si possano pianificare con una certa tranquillità. E questo era il commento appunto di Francesco Staracci, amministratore delegato di Enel Green Power, anche, soprattutto nell'ultima parte, alla bozza del nuovo decreto ministeriale che stabilisce le nuove tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio a partire dal 31 maggio di questo anno. Ma su questo decreto c'è invece un certo fermento da parte di un gruppo di operatori stranieri che addirittura ha intrapreso una procedura contro lo Stato italiano. Di questo parleremo nella seconda parte di Focus Economia subito dopo il giornale radio. Noi quindi ci salutiamo, abbiate ancora qualche minutino di pazienza, a tra poco. Sono le 18.07, anzi 08 praticamente, ancora buonasera da Deborah Rosciani questa sera insieme a voi per raccontarvi la giornata economico-finanziaria. Abbiamo già detto quello che è successo oggi in borsa, grande attenzione da parte degli operatori di mercato alla riunione del Federal Open Market Committee, il braccio operativo della Banca Centrale Americana, che tra poco, una ventina di minuti, e vi daremo la notizia in diretta, comunicherà la sua decisione sui tassi di interesse. Per la prima volta la decisione viene comunicata alle 12.30 ora americana. Ma perché enfatizziamo così tanto questo appuntamento questa volta? Perché per la prima volta nella storia

è per loro andato perduto o andrà perduto se il quarto conto energia viene emanato in questa forma. In questa forma. Quindi adesso, a parte ovviamente invocare la vostra tutela legale, che cosa intendono fare queste aziende? Perché addirittura hanno deciso, leggo proprio dal vostro comunicato stampa, di intraprendere una procedura contro lo Stato italiano con una funzione anche preventiva, perché a loro dire, a vostro dire appunto, avrebbe violato il trattato sulla carta dell'energia firmato a Lisbona nel 94. Cosa stabiliva questa carta? Perché appunto con il provvedimento sugli impianti fotovoltaici il trattato risulterebbe violato? Ma in maniera sicuramente molto semplicistica, però il trattato faceva sì che i paesi che lo firmavano reciprocamente si davano affidamento di innanzitutto non discriminare l'investitore straniero nel proprio paese e poi comunque di mantenere sempre un quadro normativo coerente che non danneggiasse gli investimenti stranieri. Quindi sicuramente quello che lamentano i nostri clienti è che entrambi questi profili sono stati violati, perché un quadro normativo coerente ovviamente non può esserci nel momento in cui una norma che doveva avere un'applicazione per anni viene ridotta a pochi mesi e quindi in qualche modo cambia quelli che sono i presupposti di base per gli investimenti. In parte c'è anche la violazione della non discriminazione, e questo naturalmente va verificato, in quanto in molte interviste rilasciate da esponenti del governo si è cercato anche di sostenere che queste norme sono volte tutto sommato a favorire un mercato italiano contro investitori stranieri, quindi a maggior ragione anche il secondo punto del trattato potrebbe essere violato. E insomma, allora noi siamo sicuri che continueremo ancora a sentir parlare di voi. Intanto l'esame dello schema del decreto legislativo sugli incentivi per gli impianti fotovoltaici domani sarà al centro della conferenza delle regioni che il presidente Vasco Errani ha convocato a Roma, e i presidenti delle regioni la scorsa settimana avevano chiesto al governo una settimana per esaminare più approfonditamente il testo. Intanto io ringrazio per essere stata con noi l'avvocato Katia Tomasetti. Buonasera e ci risentiamo più avanti per eventuali novità. Presto, buon lavoro. Volentieri, grazie. Grazie a lei. Noi adesso ci fermiamo per un piccolo break e poi ritorniamo perché parliamo di tutt'altro argomento. Parliamo di pensioni, di previdenza, tra poco. E stanno continuando, anche se abbiamo avuto modo di approfondirlo molto poco, ma di sicuro ci ritorneremo perché è un tema di grande attualità l'ordine del giorno. Molti sms appunto sul tema del conto energia affrontato poco fa. Giustamente un ascoltatore dice che gli operatori stranieri si sono precipitati in Italia per approfittare del bengodi italiano su questi incentivi, al loro paese non avrebbero avuto tali agevolazioni, ma il mercato giustamente è anche questo e quindi come tale appunto lo dobbiamo rispettare. Un altro ascoltatore, Paolo, ci chiede invece se questo quarto conto energia porterà svantaggi anche agli investitori privati che hanno montato 5 kWh sul tetto di casa propria. Paolo, sicuramente gli incentivi sono meno vantaggiosi del passato, ma magari cercheremo di fare anche, nel limite delle nostre possibilità tecniche che sono molto limitate su questo argomento, di fare qualche conto e magari mi rubo questo tema io per salvadanaio per approfondirlo nei prossimi giorni. Adesso invece cambiamo, come dicevo prima, radicalmente argomento, parliamo di previdenza. Perché parliamo di previdenza? Perché la prossima settimana, mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, si terrà a Milano a Piazza Affari, presso la sede della Borsa Italiana, la prima edizione della Giornata Nazionale della Previdenza. Per la verità poi le giornate sono due. Il primo evento italiano completamente dedicato al mondo delle pensioni pubbliche e private, al welfare integrativo e al risparmio previdenziale. Un evento organizzato da Itinerari Previdenziali con la collaborazione di Borsa Italiana, Prometeia, sarà aperto gratuitamente al pubblico, anzi è proprio al pubblico che questo evento è rivolto. Saranno presenti con le loro postazioni informatiche 65 enti previdenziali pubblici, enti pensionistici privatizzati, fondi pensione complementari, casse di assistenza sanitaria integrativa e società bancarie, finanziarie, assicurative di servizi, perché tutto ciò che attiene al tema previdenziale. Se volete qualche informazione, queste due giornate sono per voi, se avete ovviamente la possibilità di raggiungere Milano. Ne parliamo più approfonditamente perché è qui con noi in studio con Alberto Brambilla, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali. Brambilla, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io ricordo anche che Alberto Brambilla è presidente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale Italiana, oltre che padre della riforma del trattamento di fine rapporto, che per la verità porta la firma e il nome del ministro Maroni, ma materialmente l'autore ne fu proprio Brambilla in qualità all'epoca di sottosegretario al welfare. Come nasce questa idea della prima giornata nazionale della previdenza? Perché c'è ancora necessità nel nostro paese di portare maggiore divulgazione su questi argomenti? Beh, direi che sostanzialmente, come ricordava lei, nella scorsa legislatura abbiamo realizzato quella che è l'ultima riforma del sistema previdenziale pubblico, quella che con i due stabilizzatori automatici mette in equilibrio il sistema, e non potevamo non mettere mano anche alla riforma della previdenza complementare, e così è uscito questo testo unico, il decreto legislativo numero 252, che praticamente riforma tutta la previdenza complementare, i fondi pensione, e introduce anche il silenzio assenso per quanto concerne il TFR. All'interno della legge di riforma del sistema avevamo previsto, come peraltro era stato scritto nella precedente riforma Dini del 95, che ai giovani avremmo dovuto dare un estratto conto previdenziale per fargli conoscere un po' la loro posizione, per fargli capire che, parafrasando una frase ormai celebre, il futuro non è più quello di una volta. E quindi, se una volta i nostri genitori, bene o male, sapevano che avrebbero preso il 70% di quello che dichiaravano negli ultimi 5 anni, magari poi nei precedenti 30 anni non avevano versato nulla, e oggi invece la pensione dipende dalla quantità di contributi versati e dalla profondità della carriera. Lo ricordiamo, l'effetto della riforma Dini del 95. Esattamente, quindi il passaggio dal cosiddetto metodo di calcolo retributivo al metodo di calcolo contributivo. Il metodo retributivo è il maggior indiziato per il nostro debito pubblico e per tutti quei grossi problemi sulla previdenza, perché come è noto a tutti, un soggetto poteva versare un euro per 30 o 34 anni, poi l'ultimo anno versava 10.000 euro, avrebbe preso il 70% di 10.000 euro. Quindi questo era un po'. Quindi c'era una scorrelazione totale tra i contributi versati e le prestazioni. Passando al metodo contributivo, si era detto: vediamo di fare anche noi come hanno fatto gli svedesi con la busta arancione, tutto quanto, eccetera. Quindi cerchiamo di informare. Siccome ad oggi non c'era una grande informazione, ma nelle indagini di Watson Tower piuttosto che di AXA, piuttosto che di Aviva, quindi di istituti privati e assicurazioni internazionali, c'erano delle classifiche, siamo andati a vederle, e effettivamente l'italiano è quello che in graduatoria è quello che conosce meno il suo sistema previdenziale, come peraltro conosce meno l'educazione civica, perché purtroppo negli ultimi 20 anni l'educazione civica non c'è più nelle scuole, quindi non sa nemmeno che cos'è la Costituzione, spesso come funzionano i meccanismi della pubblica amministrazione. E però, paradossalmente, il 70% degli intervistati chiedeva notizie, aveva sete di sapere, e quindi è venuta fuori l'idea di portare per la prima volta a Milano tutti gli enti previdenziali pubblici, privatizzati e i fondi pensione, per cercare di mettere in condizione il numero maggiore di utenti possibili con questi enti. L'abbiamo fatto un po' su tre livelli. Il primo è proprio un livello di un incontro fisico. Uno pensa che l'INPS, non so se esiste, non esiste, dove abita, dove ha la sede. Li abbiamo portati tutti lì, quindi ognuno può andare presso il suo istituto, se è un giornalista presso l'INPG, se è un avvocato presso la Cassa Forense, se è un dipendente dello spettacolo per il presso l'EMPALS, e quindi chiedere l'estratto conto, il PIN, la password per colloquiare con questi enti. Quindi questo è il primo livello. Ecco, infatti. Poi passiamo anche al secondo e al terzo, visto che ha detto che ce ne sono tre. Mi ha fatto piacere che lei ricordasse questi aspetti, perché appunto, avendo fatto la precisazione iniziale che lei è riconosciuto come il padre della riforma del TFR, si poteva immaginare che magari questa giornata nazionale della previdenza, o queste due giornate anzi, fossero interamente dedicate proprio alla previdenza complementare, alla pensione di scorta. Invece abbiamo capito che fra le zone d'ombra nella educazione finanziaria e previdenziaria degli italiani c'è anche larga parte della previdenza pubblica, no? Del tema pubblico. Soprattutto quella. Molti non sanno neppure, per esempio, al quinto anno delle università la maggior parte dei ragazzi non sa che lo Stato ha messo a disposizione il riscatto di laurea, che è comunque un, diciamo, un regalo, però è comunque una situazione molto favorevole, perché si può versare su uno stipendio convenzionale piuttosto basso per 10 anni, possono versare i genitori, hanno la completa deducibilità fiscale, quindi insomma accaparrarsi 5 anni di anzianità contributiva non è una cosa da poco. Ecco, purtroppo dal riscatto di laurea, dal voucher lavoro, dal bonus contributivo per la previdenza complementare, queste cose non sono note. Quindi ci è parso che, partendo dalla previdenza pubblica per arrivare poi ai fondi pensione, fosse utile questo percorso. E oltre a questo incontro fisico con i fondi pensione principali, con il FONCIM, con tutti gli altri fondi, diciamo, complementari di natura negoziale o i fondi aperti, il secondo livello è proprio quello dei convegni. Abbiamo 26 convegni organizzati anche da questi fondi pensione e da questi enti. L'INPS organizza 2 convegni sul voucher lavoro, sul riscatto di laurea, l'INPDAP sulla pensione dei pubblici dipendenti, eccetera. Con questi, appunto, incontri facciamo questo secondo livello, quindi un livello di conoscenza un po' più approfondita. Poi c'è il terzo livello, che è basato sul nostro sito web, dove abbiamo previsto un ABC della previdenza, che sono più di 220 pagine, e presentano praticamente per ogni categoria le varie necessità dell'utente, come iscriversi, quanto versare, quanto sarà la propria prestazione, eccetera, eccetera. Perché avete scelto Milano, dottor Brambilla, per questo grande appuntamento e non Roma, che magari per molte persone sarebbe stato un po' più facile da raggiungere? Beh, in realtà abbiamo voluto portare un po' fuori da Roma, che è poi la sede della maggior parte di questi enti, quindi portarla in un terreno un po' neutro per cercare di avere un maggior livello di diffusione. Oltretutto a Roma c'è anche il forum della PA, dove alcuni enti partecipano, eccetera. Nonostante Roma sia, tra virgolette, più sensibile a questo problema, forse perché l'ha sperimentato da tanto tempo, mentre per Milano è una novità, abbiamo cercato di fare questo sforzo, e non è stato uno sforzo piccolo. Grazie ad Alberto Brambilla per essere stato con noi. Lo devo salutare molto rapidamente perché non abbiamo più molto tempo a disposizione, però posso ricordare, prima dei saluti, che per chi volesse avere maggiori informazioni su questo appuntamento, le modalità per poterlo raggiungere, tutti i vari eventi che sono previsti il 4 e il 5 maggio in Borsa Italiana, potete collegarvi sul sito www.lagiornatadellaprevidenza.it, tutto attaccato. Io vi ringrazio per averci seguito, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica. Domani sera torna con voi, state tranquilli. Sebastiano Barisoni da Deborah Rosciani, buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.